Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Se amate ascoltare storie piene di colpi d'ala, tenetevi pronti, perché oggi di colpi d'ala straordinari verso l'alto, ahimè anche verso il basso, ne avrete parecchi. Oggi abbiamo un protagonista che si è tirato fuori da solo dall'inferno dove è nato, è riuscito ad arrivare in paradiso fino alle vette del successo, poi i suoi fantasmi hanno avuto la meglio ed è tornato ricacciandosi da solo nell'inferno, e poi con un ultimo straordinario colpo d'ala si è risollevato tornando più forte di prima. Queste sono le storie che piacciono a noi. Il protagonista di oggi è un ex pugile di tutto rispetto che poi è diventato una star mondiale, acclamato dalle critiche, richiesto dai migliori registi, idolatrato dal pubblico. È un uomo che tutte le donne volevano e gli uomini volevano essere come lui. Poi il salto nell'inferno, l'oblio, dimenticato da tutti, solo coi suoi cani, protagonista di gossip devastanti, additato da tutti come tragico esempio di interventi di chirurgia estetica falliti, e poi 10 anni senza nessuno che lo voleva e poi un ritorno alla grandissima. Avete capito, stiamo parlando di Mickey Rourke, con la sua storia fatta di altissimi e di bassissimi, di momenti di gloria, momenti di dannazione. E vogliamo iniziare da una sua dichiarazione fatta nel 2015 durante una lunga toccante intervista rilasciata al giornalista britannico Piers Morgan, una dichiarazione che fa venire i brividi. Describe to me your upbringing. Descrivimi la tua infanzia, come la descriveresti? La mia infanzia. Guarda, non voglio farla troppo lunga, ma se avessi l'opportunità di vivere ancora dove sono cresciuto e dovessi passare ancora tutto quello che ho passato, preferirei non nascere per niente. Davvero? Suona molto drammatico. Sì, ho passato tante cose, cose di cui non mi va nemmeno di parlare. Sono cresciuto in un ambiente molto lontano dalla normalità, violento e folle. Beh, capite che uno che arriva a dire che preferirebbe non essere mai nato piuttosto che ripercorrere la propria infanzia deve averne veramente passati di tutti i colori. In effetti Mickey Rourke non ha mai raccontato veramente cosa abbia dovuto subire da piccolo, ha sempre sorvolato stando sul generico in tutte le interviste, probabilmente perché è troppo doloroso raccontare certe cose. Mickey Rourke, il cui vero nome è Philip André Rourke Jr., nasce il 16 settembre del 1952 a Schenectady, nello stato di New York, lo stesso paese del presidente Jimmy Carter. Schenectady in lingua Mohawk, quella degli indiani d'America, significa vicino alla pineta, perché è un'area molto verde, molto bella, ma di bello nell'infanzia di Mickey Rourke c'è solo la pineta. Il padre fa il bodybuilder e quando Mickey ha 6 anni abbandona la famiglia, lascia la madre con 3 bambini piccoli, lui, Mickey, il fratellino Joey, la sorellina Patty. La mamma si risposa con Eugene Eddis, che è un ufficiale della polizia, vedovo con 5 figli, 5, 3, 8. Però lui è un uomo molto, molto violento. La famiglia intanto si sposta a vivere nel sud della Florida e non è un bel vivere. Ascoltate cosa racconta l'insegnante di recitazione di Mickey Rourke, l'attrice Sandra Seacat. I think what he went through as a child was very heavy. Penso che quello che ha passato da bambino è stato molto pesante. Non ha mai superato il divorzio dei genitori e il non vedere più suo padre. Anche il trasferimento in Florida, in un posto che era molto diverso da quello a cui era abituato. Era stato un bambino molto sensibile, con gli occhi spalancati, molto fiducioso del prossimo e del tutto incapace di difendersi. È incapace di difendersi, soprattutto dentro le 4 mura domestiche. E Mickey passa momenti veramente brutti che la madre fa finta di non vedere. Quando esce di casa la faccenda non migliora, perché abita nel quartiere afro di Liberty City, un quartiere malfamato di Miami, pieno di gang, di delinquenze, insomma una vita che sembra avviata verso qualcosa di drammatico, una progressione scontata e inarrestabile, che lui però interrompe, e la interrompe grazie a una passione fortissima, quella per la boxe. Pensate che il suo primo incontro lo disputa a 12 anni, a 16 approda alla famosa palestra della Quinta Strada di Miami di proprietà di Luis El Feo Rodriguez, il pugile cubano allora campione del mondo dei pesi welter, quello che peraltro si sta allenando per il match che disputerà contro Nino Benvenuti, ne abbiamo parlato, Roma 69, Benvenuti vincerà con un gancio sinistro, ma in questo momento questo personaggio ci interessa in quanto allenatore di Mickey Rourke, che è giovane, determinato, forse non è ancora maturo, però durante i terribili allenamenti Luis Rodriguez lo mette alla prova, anche un po' troppo. Lui, Mickey, subisce dei colpi talmente forti che per due volte gli viene diagnosticata una commozione cerebrale, alla seconda volta i medici gli impongono un anno di riposo e come spesso accade nella vita, delle circostanze assolutamente negative si trasformano in occasioni, perché un colpo d'ala lo devi anche sapere individuare. Mickey Rourke sta per trasformare questa tragedia nella più sfavillante delle opportunità. Il falco e il gabbiano. Così Mickey Rourke deve abbandonare il pugilato per un anno, e per qualsiasi ragazzo della sua età, con quella passione, con quel sogno, sarebbe un colpo impossibile da mandare giù, anche perché lui nella carriera da dilettante che ha fatto fino a quel momento ha disputato 30 incontri con 27 vittorie, insomma una promessa del pugilato. Bene, lui non si perde d'animo, perché è anche un bel ragazzo, gli propongono di recitare in una commedia nella quale lavora un suo amico, e fare l'attore gli piace subito moltissimo. Così, con un colpo d'ala veramente ben assestato, Mickey Rourke si fa prestare $400 dalla sorella e se ne torna a New York, non solo perché è lì che ci sono le sue origini, perché lui è nato a New York, ma soprattutto perché lì c'è l'Actor Studio di Lee Strasberg, il meglio che esista al mondo, la scuola dalla quale sono usciti tutti nel corso di molti decenni, tutti i grandi attori americani, e Mickey Rourke cerca sempre il meglio e quindi vuole andare lì. E sembra una follia per uno come lui, perché migliaia di ragazzi e di ragazze vogliono entrare in quella scuola, che naturalmente ammette solo pochi allievi all'anno, ma lui di follie ne farà molte nella sua vita, questa è una delle più eclatanti. Non è stupido, sa che non è pronto per fare l'esame di ammissione all'Actor Studio, deve prendere delle lezioni private, per questo si rivolge a Sandra Seacat, attrice, insegnante della prestigiosa scuola di Lee Strasberg. Voleva lezioni private. Arrivava e mi metteva in mano una manciata di banconote stropicciate. Ho scoperto molti anni dopo che magari non mangiava per 2 o 3 giorni per potermi pagare. Eh sì, perché lui intanto si sta adattando a fare i lavori più umili, perché vuole fare l'attore. Qualcuno gli presta addirittura i libri che raccontano la storia del cinema, le vite travagliate dei grandi interpreti del passato, e lui un po' in quelle vite ci si ritrova. Insomma, è veramente determinato, si prepara con cura per 6 lunghissimi anni, ma quando finalmente si presenta per l'esame all'Actor Studio scopre qualcosa di terribile. Avrei dovuto fare una scena nella quale parlavo con mio padre, ma io non ero in grado di relazionarmi con un padre perché il mio non lo vedevo da quando avevo 6 anni. L'avevo perso, non ne avevo memoria nella mia testa. Sandra mi disse: se vuoi entrare all'Actor Studio, e lei lo sapeva quanto ci volevo entrare, è meglio che tu vada a cercare tuo padre. Allora andai a cercarlo e alla fine lo trovai. Lo trovai il giorno prima dell'esame. Andai in un ristorante dove mi ricordavo che mi portava il White Castle e lo vidi seduto là, nello stesso posto dove sedeva quando mi portava lì da bambino. Ci salutammo, mi pagò il pranzo, mi regalò $50 e poi me ne andai e non lo rividi mai più. Il giorno dopo feci il mio test. Beh, è un racconto terribile, peraltro sembra già la sceneggiatura di un film. Comunque, Mickey Rourke, dopo questo, immagino, tormentatissimo e dolorosissimo incontro, fa l'esame. Glielo fa Elia Kazan, il grandissimo regista, il fondatore dell'Actor Studio, uno degli uomini più influenti di Hollywood, di Broadway, e lui lui molti anni dopo dirà che quel test a Mickey Rourke era stato il migliore che lui avesse tenuto in 30 anni di vita della sua scuola. Viene ovviamente ammesso all'Actor Studio e inizia un corso di recitazione metodica tenuto da un certo Al Pacino. Il debutto cinematografico di Mickey Rourke avviene nel 79, lui ha 27 anni, il film è 1941 Allarme a Hollywood di Spielberg, insomma si parte con un regista notevole, una piccola parte, però lui si fa notare. E poi l'anno dopo c'è Michael Cimino con I cancelli del cielo, ma l'interpretazione successiva è quella del piromane nel film Brivido caldo di Lawrence Kasdan e lui comincia a dimostrare le sue doti interpretative. Il primo ruolo che lo fa notare non solo agli addetti ai lavori, ma anche ai registi, ai produttori, ma soprattutto un ruolo che lo fa conoscere al grande pubblico è quello del fratello di Matt Dillon in Rusty il selvaggio di Francis Ford Coppola. Pensa ai ragazzi la merda che si mangeranno. No, no, lascia Rusty James, meglio non dire niente, tanto la notizia si spargerà da sola. D'accordo, d'accordo. Sono un po' stufo di fare il Robin Hood e il pifferaio magico. Preferisco restare un'attrazione locale, se sei d'accordo. Sì, questa cosa del pifferaio magico l'ho capita bene. Quei ragazzi ti avrebbero seguito in capo al mondo. Eri tu il pifferaio magico e ti avrebbero seguito dovunque, dovunque. Ero il pifferaio? Sì, dici che mi verrebbero dietro fino a gettarsi nel fiume? Sì, è capace pure che lo fanno. Sai, se vuoi guidare la gente, devi avere dove andare. Il ruolo di Motorcycle Boy, il fratello di Rusty, che ruba alcuni pesci da combattimento in un negozio d'animali per liberarli nel fiume, la metafora della vita disadattata dei ragazzi di strada, e questo ruolo calza perfettamente a Mickey Rourke, che ormai è lanciato verso una brillantissima carriera da star. E poi c'è un film che si chiama Il Papa del Greenwich Village, che è un flop di incassi, ma che lo fa segnalare alla critica, agli altri registi, e nell'85 Michael Cimino lo richiama, questa volta è protagonista del suo nuovo film L'anno del dragone, dove Mickey Rourke interpreta Stanley White, che è un capitano di polizia pluridecorato che combatte la tria dell'organizzazione mafiosa cinese nel quartiere di China Town di New York. Ma è il 1986 l'anno della svolta, il film che segna un punto fermo nella carriera di Mickey Rourke, lo spartiacque tra il prima e il dopo, quello che lo vede diventare a tutti gli effetti e per parecchi anni il sex symbol per eccellenza, l'uomo voluto da tutte le donne, imitato, un po' invidiato da tutti gli uomini, quello che si diceva turbasse il sonno delle casalinghe americane e non solo americane. Lui viene scelto dal regista Adrian Lyne per interpretare l'ambiguo ruolo di John Gray a fianco di Kim Basinger. Il film dal lieve erotismo secondo i canoni odierni, ma allora fece scalpore, conquistò un successo insperato a livello mondiale, catapultò gli interpreti sulla scena internazionale, ma in particolar modo catapultò lui, Mickey Rourke, e stiamo ovviamente parlando di 9 settimane e mezzo, e anche se lo spogliarello famosissimo lo fece Kim Basinger sulle note di You Can Leave Your Head On cantata da Joe Cocker, in realtà fu proprio lui, Mickey Rourke, a diventare il simbolo di quel film col suo personalissimo modo di muoversi, di parlare, di guardare, di sedurre con gli occhi. Insomma, io ascolto le donne e le donne in quegli anni di Mickey Rourke parlavano in toni entusiastici. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando quella centrifuga emotiva che è stata la vita non semplice, la vita piena di sofferenze, ma anche di successi stellari e anche di cadute, di momenti in cui ci si risollevava, di uno dei miti di Hollywood. Insomma, stiamo raccontando la vita di Mickey Rourke. Abbiamo ripercorso i primi anni con un'infanzia difficile, di abusi, di sofferenze, poi il suo amore per il pugilato, la sua carriera sul ring interrotta da due commozioni commozioni cerebrali e poi il colpo di fortuna, paradossalmente, di queste commozioni cerebrali, perché nasce a causa dell'inattività un innamoramento per il cinema, il sogno di diventare attore, di poter entrare nella mitica scuola di Strasberg e di Elia Kazan, cioè l'Actor Studio di New York. E poi abbiamo ripercorso tutti i primi passi del mondo del cinema fino alla consacrazione internazionale del 1986 con 9 settimane e mezzo. Mickey Rourke. Mi sto prendendo cura di te. Un brodo caldo. È buono. Bevi. Come facevi a sapere che avevo bisogno di tutto questo? Come hai fatto? Perché sei come me. Bisogna fare attenzione a un fatto che è importante per comprendere gli eventi successivi della vita e della carriera di Mickey Rourke, perché nonostante il successo, nonostante i soldi che guadagna, che stanno diventando tanti, e nonostante i fan, lui rimane il ragazzo timido dall'infanzia difficile. Lui fatica a relazionarsi con il mondo molto complesso di Hollywood, con la parte politica del suo lavoro. Lui è un duro, è un uomo di poche parole, non scende a compromessi, insomma è uno che assume posizioni scomode che pagherà molto care, perché Hollywood è anche il regno del perbenismo e del politically correct. Ma intanto lui si sta godendo il successo dopo 9 settimane e mezzo. Tutti lo cercano, lo vogliono, lui impara a tingere a piene mani da questa fortuna che gli è arrivata inaspettata, insomma cercata ma non programmata. È una fortuna che neanche gli stessi produttori del film si potevano aspettare. Ero fuori controllo. Ogni notte un posto diverso dove andare, donne bellissime. Droghe? No, droghe no, ma moltissime donne. Ne avevi tante? Beh, dipende dal film che avevo appena fatto. Qual è stato il miglior film sotto questo punto di vista? Probabilmente 9 settimane e mezzo. Direi di sì. E quante donne hai avuto grazie a 9 settimane e mezzo? Enough. Abbastanza. Enough. E l'anno dopo, 9 settimane e mezzo, Mickey Rourke dà vita a quella che i critici ritengono la migliore interpretazione della prima parte della sua carriera, il ruolo di Harry Angel, l'investigatore privato di Brooklyn, nel film Angel Heart, Ascensore per l'Inferno. Harry Angel viene incaricato di indagare su una misteriosa scomparsa di un insolito uomo, Louis Cipher, interpretato da Robert De Niro. Louis Cipher, ovviamente, il diavolo. È un film che fa parlare molto, sia per il tema, l'anima venduta al diavolo, e sia per le scene di sesso sfrenato tra Mickey Rourke e l'attrice Lisa Bonet. Comunque uno strepitoso successo che mette in risalto le grandi capacità interpretative di Rourke, che peraltro si sta confrontando con un mostro sacro come De Niro. E lo stesso anno Mickey Rourke è protagonista di Barfly, Moscone da bar, scritto da Bukowski, prodotto da Coppola. L'attore interpreta il ruolo del personaggio alter ego di Bukowski, ricordate, ne abbiamo parlato, Henry Chinaski. Quando ho letto i suoi racconti volevo sapere qualcosa su di lei. Mi hanno incuriosita, molto incuriosita. Lei scrive molto bene. Perché vive come un barbone? Perché sono un barbone? Che vuole che faccia? Vuole che scriva delle sofferenze delle classi abbienti? E nell'88 arriva Homeboy, un bellissimo film di cui Mickey Rourke scrive il soggetto. È la storia di un cowboy che diventa pugile, insomma un film autobiografico, un film intenso con Christopher Walken nella parte dell'amico manager che lo sfrutta, che mette a rischio la sua vita. È una storia molto commovente che ha una colonna sonora straordinaria scritta da Eric Clapton. Ma la vita di Mickey Rourke comincia a mettere in difficoltà la sua carriera, perché lui comincia a lasciarsi andare a dichiarazioni che risultano impopolari e poi comincia a rifiutare ruoli importanti. È la star del momento e tutti vanno da lui, e lui rifiuta di fare, non so, Top Gun, Beverly Hills Cop, Rain Man, Pulp Fiction. Peraltro questo contribuisce a lanciare attori come Tom Cruise e Eddie Murphy. Insomma, i registi cominciano a lamentarsi, dicono che è difficile lavorare con lui, dicono che ha un brutto carattere. Lui peraltro comincia a avere anche delle amicizie quantomeno discutibili, non so, il clan di John Gotti, il mafioso, e poi va in moto con i membri delle gang di motociclisti più estreme, e poi lui prende posizione nella faida tra il rapper Tupac Shakur e l'altro Notorious B.I.G. e si fa parecchi nemici tra i sostenitori di quest'ultimo, perché lui è amico di Tupac, e poi dichiara di essere a favore del PIRA, la Provisional Irish Republican Army, cioè l'organizzazione paramilitare che si batte per la fine della presenza britannica nell'Irlanda del Nord, che secondo me è una battaglia sacrosanta, ma lui insomma la finanzia con donazioni generose e qualcuno alla fine decide di fargliela pagare. È una cosa della quale non parlo più molto volentieri, come vedete ho imparato la lezione, ma al tempo non avevo una cultura sufficiente per permettermi di capire in cosa mi stavo mettendo. Fui bandito dalla Gran Bretagna. Ed essere boicottati dalla Gran Bretagna è un grosso guaio. Se loro non comprano più i tuoi film, tu non riesci più a lavorare. Insomma, si mette contro le persone sbagliate, dice cose che non tutti vogliono sentirsi dire, invece di continuare a fare la star ossequiente e ossequiosa verso il sistema hollywoodiano, diventa il classico personaggio scomodo. E i grandi signori di Hollywood, così come l'hanno creato, ci mettono un attimo a distruggerlo. E lui li aiuta, fa scelte professionali sbagliate. Nell'89 gira un film, diciamo, softcore di scarso valore, Orchidea Selvaggia, è un flop che ha l'unico merito, se così si può dire, di far incontrare Mickey Rourke con la bellissima modella Carrie Otis, che diventa sua moglie nel 92, poi dalla quale divorzierà nel 98. Peraltro fu un matrimonio burrascoso, anche lì, perché ci sono denunce, arresti per violenza domestica. Nello stesso anno, nell'89, viene scelto dalla grande Liliana Cavani per il film Francesco, un film sulla vita di San Francesco d'Assisi, e lui dà un'interpretazione da grande attore, però ormai il suo cammino è segnato. Il periodo d'oro di Hollywood è un ricordo lontano, Hollywood lo ha fatto fuori, e così lui, con un colpo d'ala enorme, prende una decisione che rivoluziona la sua vita. Decide di tornare sul ring. Siamo nel 1991, lui ha 39 anni. E con questa canzone dei Guns N' Roses, amici personali di Mickey Rourke, l'attore tornato pugile apre i suoi incontri. Insomma, il divo di 9 settimane e mezza, quello che ha fatto innamorare milioni di donne, torna sul ring con il nome di El Marielito, e peraltro vince, sconfigge gli avversari, così che invece di combattere per un solo anno come aveva previsto, prosegue gli incontri per 5 anni, 5 anni nei quali Hollywood lo ha dimenticato, ma non i fan del pugilato. E tutto questo dura fino a quando la sua situazione fisica non raggiunge un punto di non ritorno. Si rompe in più punti il naso, si rompe le costole, non ha più denti, si rovina le mani, ha la lingua tagliata in due, inizia a perdere la memoria a breve termine, i medici gli vietano di salire nuovamente sul ring, e le operazioni per rimettere insieme il suo volto sono terribili. Gli viene ricostruito il naso prendendo della cartilagine da un orecchio, gli zigomi vengono riempiti di silicone, le labbra subiscono la stessa sorte. Insomma, il risultato è qualcosa di veramente drammatico, perché lui è completamente sfigurato, non può più combattere, e è difficile anche trovare dei ruoli da attore con quel tipo di faccia e con Hollywood che ti ha abbandonato. È un uomo finito, è solo, è abbandonato da tutti, vive quasi in povertà con i suoi adorati cani, gli unici, dirà anni dopo, che non lo hanno mai abbandonato. Ma dopo un tempo lunghissimo, 10 anni, si torna a parlare di Mickey Rourke, perché con un colpo d'ala davvero maestro nel 2005 è protagonista di uno degli episodi di Sin City, il fumetto di Frank Miller e Quentin Tarantino, dà vita al tremendo personaggio di Marv, spietato assassino dal volto sfigurato. Rientrare attraverso un capolavoro, perché Sin City è un capolavoro nel suo genere, in qualche modo gli riapre delle porte, e così lo stesso anno interpreta un cacciatore di taglie in Domino con Keira Knightley, ma nel 2008 le cose cominciano ad andare veramente per il verso giusto. Ci beviamo una birra. Una birra. Non hai una figlia? Sì, ho una figlia, ma non le sono mai piaciuta. Dovresti chiamarla. Che cosa vuoi da me? Sono un vecchio pezzo di carne maciullata. Me lo merito di restare da solo. Voglio soltanto che tu non mi odi. Due parole. Rivincita. Ci sto. Con un po' di fortuna sarà il mio biglietto per tornare in cima. Vale la pena, anche se perdi tutto quello che ami e tutto quello che ama te. Molti mi hanno detto che dovevo smettere di combattere, ma gli unici che possono dirmi quando devo smettere di fare il mio mestiere siete voi. Beh, un film meraviglioso, peraltro la voce di Mickey Rourke e del mio amico Francesco Pannofino. Il film è The Wrestler, è il regista è Darren Aronofsky ed è la storia della vita e della morte del vecchio wrestler professionista Randy The Ram Robinson. E Mickey Rourke dà un'interpretazione dalla profondità straordinaria, e sicuramente perché c'è molto di autobiografico in questo film, c'è tutta la sua sofferenza, il suo vissuto e la sua voglia di rivincita. Insomma, è un film che è veramente cucito su di lui. Vince il Leone d'Oro al Festival di Venezia e poi si porta a casa una serie incredibile di riconoscimenti, la candidatura come miglior attore agli Oscar 2009, il Golden Globe, il premio BAFTA. Tra l'altro Bruce Springsteen, amico personale di Mickey Rourke, gli regala una straordinaria canzone che si intitola come il film The Wrestler e che nel 2009 vince il Golden Globe come miglior canzone originale. Insomma, è un successo meritato e straordinario per un'interpretazione che è la sua miglior performance di tutti i tempi. E The Wrestler riapre in maniera definitiva la carriera di Mickey Rourke. Forse Hollywood ha dimenticato, l'ha perdonato, o forse lui ha imparato a gestirsi un po' meglio. Nel 2010 recita nei Mercenari di Sylvester Stallone, poi nel Colossal Iron Man 2 e poi altri film dove ha sempre dei ruoli particolari perché ha una fisicità decisamente anomala. I film sono Immortals, Generation Iron, il seguito di Sin City, Skin Traffic, l'anno scorso War Pigs. Però bisogna aspettarsi ancora dell'altro da Mickey Rourke, perché lui non è mai finito e ogni tanto rispunta fuori con qualcosa di insolito. Lui l'ha promesso ai suoi fan, la mia interpretazione migliore, ha detto, deve ancora venire. Ci sono storie a volte sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno saputo volare in alto. Nel caso di Mickey Rourke le ascese e le cadute sono state veramente tante. Lui è riuscito sempre a ribattere colpo su colpo alle pietanze sgradite che la vita ha preparato per lui. Ce l'ha fatta più di una volta. Ognuno di noi può rischiare di cadere, può anche cadere, ma può anche dare il colpo d'ala che lo porta a volare in alto come il falco o come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a cercarmi sui miei social, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma lo sapete, se volete mi trovate. Ciao, a domani.